Sono stato convocato. Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Ma come cosa vuol dire? Non ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano, tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati di Carlo Genta. Neymar, che giocata, ne salta due, scappa via a sinistra, accelera Neymar, controllo palla al piede, puntata Silva, Neymar la piazza con deviazione, trova il gol del 2-0 in Brasile. Ancora Coutinho, vuole l'ultima giocata. Coutinho va in porta a giro, Coutinho! Voleva la tripletta, si porta a casa il pallone, Coutinho è 7-1. 7-1. William, ecco il Chelsea che si accende. Diego Costa, controllo, dribbling, sinistro, rete! Ha segnato Diego Costa, secondo gol in Champions League con la maglia del Chelsea per l'ispano brasiliano. Si riapre la partita a Stamford Bridge. Lo scambio in velocità, attenzione, palla in mezzo, c'è il gol! C'è il gol stavolta! Stavolta ha trovato lo spiraglio, proprio Mbappé. Non c'è arrivato Buffon qua, 2-1. Non c'è arrivato Buffon. Sull'Europa piovono milioni di miliardi. Come sapete, giocatori sul mercato, affari colossali. Neymar innesca Mbappé, come abbiamo sentito in questa bellissima copertina. Anzi, grazie a Giorgio De Luca, il nostro autore, e Paolo Corleone in regia. Innesca, dicevo, Neymar innesca Mbappé, il quale innesca Coutinho al Barcellona, e Diego Costa è lì che aspetta una destinazione, perché pare che tutti lo vogliono e nessuno lo piglia, vero Carlo Laudisa della Gazzetta dello Sport? Ciao Carlo, ciao a tutti. No, in realtà Diego Costa è surreale, surreale in questo mondo, è quello che sto dicendo. Milionario, ha già scelto, va a Madrid, nonostante dovrà restare 6 mesi fermo per lo stop al mercato dell'Atletico. Il blitz dei dirigenti rossoneri di lunedì sera a Cala di Volta per la chiacchierata con Jorge Mendes è stato infruttuoso sotto questo profilo, perché il procuratore anche di Cristiano Ronaldo ha detto chiaramente che il giocatore ha scelto, quindi questa sua scelta di vita la rispetta, di carriera, perché torna alla base. Ma sì, per carità, ma è paradossale anche come abbia fatto quasi fatica a trovare una destinazione un giocatore che è stato chiaramente messo da parte dal Chelsea e comunque poteva avere anche le caratteristiche che servono al Milan. A proposito, quando inchiostriamo e chiudiamo sta vicenda del centravanti del Milan, che ormai io credo che più passano le ore, più a Firenze facciamo il weekend, lo annunciamo nel weekend. Potrebbe stare all'inizio della prossima settimana, ma ormai la resa dei conti è vicina, perché Diego Costa non viene. Aubameyang è ancora troppo lontano, Belotti e Cairo è irremovibile sulla sua scelta di non scendere sotto quota 100, almeno di squadra, se no 80 cash, e quindi vedremo nelle prossime ore, sono ore decisive in casa milanista, però la logica dice che alla fine a Montella Canali ci piace, quindi verrà accontentato l'allenatore. Nulla che può contare pure a me, almeno in un contesto come quello del Milan. Piuttosto sai che ha bisogno, sai benissimo che ha bisogno di un centravanti, no? Basta guardare il titolo della Gazzetta dello Sport di oggi, il titolo in alta pagina, sai benissimo che ha bisogno di un centravanti, no? Ma il centravanti di scorta, di riserva, però se questo è di cristallo, come scrivete voi, ed è così, e anche se non fosse di cristallo non puoi averne uno solo, questo mi sembra evidente. Stiamo parlando di, che per chiarezza, Inter Icardi. Allora, l'Inter sicuramente ha fatto delle mosse in queste settimane importanti, perché ha messo il suo contratto Pinamonti, che è un talento di cui si parla molto, ed è stato confermato. Io non so se alla fine l'Inter investirà molto nel ruolo di vice Icardi. Al mio modo di vedere, Sabatini e Ausilio sono molto più impegnati a capire cosa accadrà per Perisic e di conseguenza come disegnare le frecce da affiancare ai guardi, certo. Perché lì sugli esterni c'è bisogno di qualità e a centrocampo manca ancora un tassello importante. Il sogno aspetta un attimo su questo, mentre sì. Dico, saluto con la mano gli ascoltatori che ci guardano sulla pagina Facebook di Radio 24, di quella di tutti i convocati, perché siamo anche in diretta video, come sai. Tu sei, sì. Vedono anche te, anche se sono in voce. Ma senti, Carletto, allora, dammi a oggi, 26 di luglio, ore 14, 11 minuti, 20 secondi in questo secondo, le probabilità di Vidal e di Nainggolan all'Inter. Comincia il tempo. Faccio il calma. Sono basse entrambe, purtroppo, perché Nainggolan è ormai sposo novello, annunciato ancora no, ma ci siamo. E per Vidal Ancelotti sta facendo una difesa strenua, perché lo ritiene indispensabile per il suo centrocampo e quindi non vuole dare semaforo verde alla cessione, per quanto l'Inter sia motivato a spendere anche 50 milioni. Al Bayern evidentemente non fanno di questi calcoli, perché il problema sarebbe sostituire Vidal. Anche perché Renato Sanchez non credo, non ha messo, cioè, no, Ancelotti non lo ritiene maturo dal punto di vista tattico. Ecco perché c'è questa idea di darlo in prestito. Il Milan si è fatto avanti, però l'offerta di 1,5 milioni non soddisfa il Bayern Monaco, che gli chiede 7,5, ma non per una questione economica, solo per capire la volontà effettiva del club che vuole prenderlo in prestito. E se ne è parlato di questo anche nella missione di Sarda, no? Perché Mendes c'è il procuratore anche di Sanchez, e da questo punto di vista, anche sotto questo profilo, mi pare di capire che le speranze siano residuali. Sì. Hai dato una bella botta per il weekend ai tifosi dell'Inter. Già mi sono sbilanciato con i soldi e con quello spunto proprio di Ibrahimovic, di Di Maria di Thiago Silva, quindi ho già dato da questo profilo. Hai già bacchettati tutti quanti. No, ascoltami, invece Merea alla Roma, insomma, magari era comandato alla larga da Ranieri, è stato uno dei grandi, Marezza alla Roma è stato uno dei grandi protagonisti, grandi protagonisti del miracolo, no? Sì, Monchi sostiene di avere il signor giocatore, che evidentemente è impaziente di fare una nuova esperienza, e questo può essere un'alleanza importante, perché in tal caso oggettivamente la sostituzione sarebbe al meglio, no? Certo, del giocatore sulla fascia, per cui per la Roma sarebbe un bel colpo. Ci stanno lavorando con grande ottimismo. Senti Carlo, per chiudere, dai ai nostri ascoltatori qualche, insomma, motivo per il weekend, qualche novità da qui al weekend. Che succede? Beh, sai, il weekend nel mercato è sempre molto pericoloso, perché più il momento delle riflessioni e delle strategie, più che delle scelte operative. Quindi i grandi temi li abbiamo già affrontati nella bella copertina che ho ascoltato anch'io con interesse. Sono citati Neymar e Coutinho. Vediamo cosa accadrà, perché lì la cottura è in fase avanzata, quindi sarebbe un colpaccio quello di Neymar, quello di Mbappé. Ripetimi quanto sposta, non c'è ancora un accordo tra i club, ma Coutinho per quanto viene via? Ma 75 milioni. Hai detto? L'Inter, se non erro, 75. L'Inter, se non erro, l'aveva venduto 75-80, quello è la quotazione. E era andato via dall'Inter a 13 milioni dal Liverpool, no? E quindi è certamente un giocatore che ha preso valore in questi anni, ma soprattutto quello che colpisce è il fatto che diamo una buona notizia ai tifosi della Juve: Dybala non si tocca, Dybala resta. Questo è un dato di fatto. Io ho fatto rapidissimi conti con Coutinho: il domino a 3 sposta 637 milioncini di euro. Sì, solo per i cartellini, ovviamente. No? Cioè, stiamo parlando di quello: Mbappé, Neymar e Coutinho in 3, ragazzi. Tanta roba, ma lo avevamo facilmente previsto. Forse anche nei precedenti collegamenti, no? Che sarebbe stata un'estate torrida perché. La gran mole di denaro che arriva da Premier certamente sposterà, tanto, però qui abbiamo in realtà in questo momento le inglesi ancora non hanno dato tutta la loro forza, la loro potenzialità economica, perché qui stiamo parlando del PSG, stiamo parlando di tre squadre e tre giocatori. Carlo, io ti ringrazio moltissimo. Grazie moltissimo, Carlo Laudiso. 800240024 a me sono cifre che non fanno né caldo né freddo, perché sono le leggi del mercato. Sulla mano alzi la voce chi non la pensa così. 800240024 traffico. Convocati. Dimentica i compromessi. Scegli di avere tutto con Lexus CT Hybrid Icon. Vi presenta. Tutti convocati. Fondamentalmente una strana storia che mi lascia un po' di amaro in bocca, mi lascia deluso per come è andata a finire. Sono stato dipinto come un mercenario, una persona legata ad un brand sportivo, cosa che è vera. Io sono un atleta sponsorizzato dall'Adidas, ho un contratto con questa ditta, però questo contratto non prevede l'utilizzo delle scarpe in nazionale, nel senso che io sono libero, c'è la clausola nel mio contratto in cui che dice che io sono libero di usare qualsiasi marca di scarpe venga fornita dalla nazionale. Succede che il problema l'ho tirato fuori io insieme al mio staff. Abbiamo fatto presente alla Federazione Italiana Pallavolo che io avrei bisogno di un paio di scarpe, come ho sempre fatto e usato, da basket. Il mio unico pensiero adesso è andare a fare gli europei con una scarpa idonea, non farmi male, cercare di dare una mano alla squadra. Ma tu la vedi questa possibilità? Cioè? No, ancora sì, ancora lo spero. Quindi tu adesso questo ti senti di chiedere? Troviamo una soluzione insieme? Siamo ancora in tempo per trovare una soluzione? La soluzione credo che ci sia, la soluzione non credo che sia così complicata. Però... Quindi il tuo messaggio è quello di apertura, incontriamoci, vediamoci e troviamo una soluzione. Assolutamente, io darei anche una gamba per la nazionale. Siamo chiari, qui non stiamo parlando di calcio, ma di una vicenda che a me interessa in maniera pazzesca. Questo è Zaitsev, pallavolista, lo zar che tutti ricordiamo alle Olimpiadi, con la faccia da dura, da cattivo, che ci ha portati comunque tanto avanti, e che è uno dei più forti giocatori che siamo in grado di schierare. L'abbiamo sentito qualche brano di questa intervista esclusiva a Sky. Per farla breve, per farvi breve la vicenda, lui, come avete sentito, è sponsorizzato dall'Adidas. In nazionale hanno detto: tu con quelle scarpe non giochi, e quindi ti lasciamo a casa. Allora, una delle fotografie iconografiche della nostra epoca dello sport, ve la ricorderete, è Michael Jordan sul podio di Barcellona 90, nel vero Dream Team di Original One, con la bandiera americana drappeggiata a coprire un marchio che non lo rappresentava, che era quello della Reebok, mentre, come sapete, è inutile che vi dica di chi era l'immagine della proprietà di Michael Jordan. Gigi Mastrangelo, buongiorno. Buongiorno, ragazzi. Puzza questa cosa di Zaitsev. Io ho fatto un bel tweet stamattina. Ti pare che non abbiamo letto, abbiamo pure ritweetato. In cui ho scritto che per lasciare a casa un giocatore come Zaitsev, importantissimo per questa nazionale e per l'europeo che ci sarà. I motivi sono due: per un paio di scarpe è assurdo, quindi o non hanno proprio bisogno, l'allenatore non ha bisogno di lui, oppure si sta cercando già l'alibi per un'eventuale figura di M. Ah. Allora, io siccome è molto probabile, perché viste le altre sono tutte molto più forti, a partire dalla Francia che ha vinto, insomma, l'ultima World League, se l'avete visto, no? Sì, certo. Ecco, e quindi sa, ci sono quegli allenatori che si cercano già l'alibi. Io ne ho avuti tanti di allenatori, tanti anche di questo tipo, ma quelli veri trovavano la soluzione sì. Siccome ci sono passato anch'io per il discorso scarpe, sì, lo so. Ma è un discorso di stretta attualità, è un discorso di stretta attualità dello sport dei nostri giorni, no? Quando il giocatore che porta le scarpe con le tre striscette, che va nello squadrone che porta il baffo, può essere un problema politico diplomatico, ma risolvibile. Però poi c'è una vita che nel volley è sempre stato così, cioè il volley c'è lo sponsor tecnico che va rispettato dall'inizio alla fine della stagione, sia nel club che nella nazionale. Nella nazionale è molto difficile, devi metterti la scarpa e basta, non esiste. Nel club si può trovare una soluzione parlandone prima con la società, eccetera eccetera, però è un grosso limite che ha il volley da sempre. Non è come nel calcio, che ognuno si porta il suo scarpino, si prende i suoi milioni di euro. No, questo è evidente, questo è chiarissimo. Però è un grosso limite che deve comunque, al volley in questo deve cambiare molto, è molto molto indietro. Sì, però Gigi è comunque presente quella foto che citavo prima, no? Michael Jordan, sì, che è sul podio di Barcellona, e hanno detto: no, tu devi indossare per forza la tuta con il marchio Reebok, e non poteva non farlo, e si è inventato lì per lì, per salire su quel podio, appunto questa bandiera drappeggiata sul logo, salvando Capra, delle Olimpiadi, un capra pochino e cavoli. Ma è una vicenda che appunto ha fatto il giro del mondo. No, piuttosto come sai benissimo, Zaitsev, a domanda di Sky, ma hai avuto reazioni, qualcuno ti ha chiamato, i tuoi compagni? Ho ricevuto una telefonata, questo mi fa pensare. Sai, lui in questo momento è il giocatore più popolare che ha l'Italia. Ci può essere anche molta invidia, anche secondo me, da parte dei suoi compagni, no? Il fatto che a lui magari siano concesse alcune cose, ad altri no, eccetera eccetera. Il fatto che lui abbia più visibilità di... guarda, io mi rivedo in lui quando giocavo, guarda. Sì. Ero sempre un motivo di discussione in qualsiasi roba, stavo sempre al centro di tutto. E magari stavi sulle palle a tante persone, compagni compresi. L'invidia è una brutta cosa. Una brutta bestia. Come diceva Lucchetta nei giorni scorsi, nel volley i personaggi vengono sempre distrutti, se non si riesce a creare. Quindi o ti crei da solo e cerchi di fare meno danni possibili, ma il volley difficilmente crea dei personaggi. Se ne viene fuori qualcuno, lo devono distruggere, perché sembra che e poi, dia fastidio poi a qualcuno. Gigi, poi vai a raccontare a loro signori: ma non ci fanno vedere in TV, ma non ci cagano. E poi si lamentano perché il volley non va in TV. Ma la chiave di tutto, cioè, è creare personaggi, oltre a vincere, creare personaggi che possono essere mediatici e seguiti. Sto vedendo Federica Pellegrini che nuotano anche oggi. Ma no, ma è trucco, cioè, per avvicinare la gente, per portare Maometto alla montagna, per avvicinare la gente a questo sport bisogna creare dei personaggi. Ci sono in altri sport che sono inferiori alla pallavolo, sono più personaggi che nel volley. Guarda, cioè nella scherma ovviamente sono stati bravi a costruire sulle vittorie l'immagine, e poi da lì ad andare in TV, ad andare a rendere popolare comunque la scherma, perché questo è comunque importante per la vita di uno sport. No, però piuttosto, tornando al discorso di prima, la mia sensazione è che valga la prima delle tue considerazioni più che quella relativa al paraculismo, perché non basterebbe comunque la presenza di Zaitsev a giustificare un'eventuale figuraccia. Mi viene da pensare che non sia tanto gradito al Club Italia. Ecco, sì, purtroppo le cose sono due, guarda, uno e l'altro. Comunque, io dico, ai miei tempi la soluzione si trovava, perché quando un allenatore ha bisogno di te la soluzione la trova. Uh-huh. E nel mio caso coprì il marchio con lo scotch, quello che, certo, che usano sulle mani, no? Bastava coprire il logo e basta. Io potevo mettere qualsiasi tipo di scarpa, qualsiasi modello che insomma che mi facesse stare bene, eccetera eccetera. Ma chiaro, perché si trovava la soluzione, si giocava, si vinceva, si andava avanti. Comunque Gigi, nel salutarti, hai sentito prima Carlo Laudisa, puoi stare tranquillo, Dybala non si tocca. Fanatico della Juventus, intoccabile. Firmato Carlo Laudisa, Dybala non si tocca. Possiamo stare tranquilli quest'altro anno, dai. Sì, ma mi sa che siete anche un po' troppo tranquilli. Mi sa che poco tranquillo è l'interesse del campionato, parliamoci chiaro. La tirannia è destinata a continuare. Con tuo grande gioia. Come avete visto anche voi, Ivan ha espresso la sua volontà di andare a questo europeo, perché la maglia azzurra è la maglia azzurra e non si deve mai né rifiutare né far di tutto per perderla. Quindi a questo punto la palla è in mano alla federazione. Se lui l'ha detto, io posso mettere tutte le scarpe che volete, ma l'europeo non lo voglio. Gioco anche a piedi nudi, ma no, ma è ovvio. Quindi ti fa ancora più pensare. Esatto, che... al discorso di cui sopra. Bravo. Grazie Gigi, un abbraccio. Grazie a voi. Ciao Gigi Mastrangelo. Con voi. Reciproco, ovviamente. Michele da Vicenza, primo ascoltatore di oggi, 800 24 00 24. Dica. Sì, buongiorno Carlo. Buongiorno a lei. All'inizio volevo fare una domanda ironica, dire se... Prego, la Fiorentina, facciamo questa domanda ironica. Se la Fiorentina, dopo la sontuosa campagna acquisti di quest'anno, perché sono tifosissimo viola, può acquistare Neymar. Però in realtà non ho neanche coraggio di farla, perché sono così depresso, che... Che non le viene neanche l'ironia. Sì, non mi viene neanche l'ironia, cioè stiamo proprio allo sbando. Io ho il sospetto che vogliono svuotare la squadra e poi svendere la società. Ho questa percezione, perché non ho mai visto una cosa del genere. No, allora, svuotare il forziere e vendere solo la scatola non avrebbe tanto senso, perché non fai altro che deprezzare quello che vendi. Piuttosto c'è un distacco enorme, così come non c'è mai stato, pur in un amore complicato come quello tra i Della Valle e la Fiorentina, c'è un distacco in questo momento quasi incolmabile. Poi è evidente che quel famoso comunicato, lasciamo la Fiorentina ai fiorentini, era tutta aria fresca, aria fritta, se preferite. E la Fiorentina, se c'è qualcuno che vuole pigliare la Fiorentina, va lì e se la prende, perché Della Valle sono stufi. Firenze è stufa di Della Valle, altrimenti il matrimonio andrà avanti, se non per amore, per forza. Francesco da Bari, buongiorno. Buongiorno. Dica. Senta, ma non le sembra un po' esagerato? No. Parlare sui costi, no, così alto? No. Qui c'è gente che non va avanti, non arriva a fine mese. Nel mondo siamo messi un po' male, quindi. No, allora. Secondo me lei da giornalista dovrebbe ragionare in tal senso. No, allora, poi è chiaro, Francesco, il mercato è libero, Ecco, bravo, è questo il ragionamento che faccio io. Io non, da giornalista non sono tenuto a fare niente, io sono qui per informare e per dire quello che pensa. Capisce? Io sono d'accordo sull'applicazione delle leggi di mercato, qual è il problema? Guardi che il sottoscritto a fine mese ci arriva a fatica, non è che... E so benissimo che sono un privilegiato, però se ci sono le leggi di mercato, no, che valgono, non fatemelo dire per... Credo quest'anno siamo a quota 1.476 volte. Se ci sono delle leggi di mercato che valgono per la musica, per i pittori, gli artisti, gli scultori, gli attori, valgono anche per gli sportivi. Quindi nessuno obbliga qualcuno a spendere quelle cifre. Quelle cifre le determina semplicemente il mercato. Questo è il mio pensiero e non ci trovo nulla di scandaloso. Borsa. Tutti convocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati. Questo pezzo si intitola molto bello, si intitola Love or Money. Siamo, mi sembra siamo perfettamente in tema, in argomento, grazie alle scelte musicali del professor De Luca. C'è Andrea D'Amico, il nostro amico, il procuratore. Ciao Carlo. Ascoltatori. Augusto da Milano invece è un ascoltatore che ascoltiamo, che sentiamo subito. Dica, buongiorno gente. Buongiorno. Piacere parlare con lei. Piacere tutto mio. Solo una cosa, siamo proprio un paese strano. Tornando al discorso dello Zara, della pallavolo. Sì, Zaitsev. L'Adidas praticamente dovrebbe fare un regalo grosso alla Federazione Italiana. Gli ha fatto più pubblicità ancora rispetto al stare zitti o comunque tenere nascosto. E quindi io penso che dovesse fare una cosa del genere, Zaitsev potrebbe benissimo dare un paio di scarpe a Zaitsev senza marchio, sarebbe una bella figura ancora di più. E comunque siamo veramente un paese strano, e sono d'accordo con te comunque sul discorso dei soldi. È vero, il mercato libero è giusto che ci sia, ed è giusto che vada avanti così. La legge, per l'appunto la legge del mercato. Esatto. Cioè, se i conduttori radiofonici fossero pochi, fossero rari, io guadagnerei un sacco di soldi e Andrea D'Amico, che è il mio procuratore ufficiale, farebbe un sacco di soldi. Purtroppo io, se non ci sono io c'è un altro e quindi valgo quello che valgo e faccio fatica arrivare a fine mese. Questo è il discorso. Quanto a Zaitsev è esattamente così. Lei sa benissimo il vecchio adagio: non è importante che se ne parli bene o male, l'importante è che, Andrea D'Amico, se ne parli, mio caro. No, stavo facendo questo discorso prima, che poi scatena anche ondate di demagogia. Se vuoi tra poco te ne do anche una dimostrazione, 800240024. E allora, tre giocatori, 637 milioni di euro che piovono sull'Europa per tre giocatori, e c'è gente che non campa con 1000 euro al mese. Anzi, sai cosa faccio? Quasi quasi chiamiamo subito il signor Briateur, che ci può dare qualche dritta sulla questione. Al di fuori dello scherzo, Andrea, il mio pensiero è questo, magari controcorrente e controtendenza, lo conosci. Sono le leggi di mercato a fare il prezzo, giusto? Assolutamente sì, assolutamente sì. Il mercato è assolutamente libero, i calciatori nella fattispecie sono assimilabili ai grandi artisti. Certo. È chiaro che tutti noi cantiamo tutta la doccia, mi pagano per stare zitto, mentre magari si sta sempre Pavarotti. Andrea, aspetta un istante che ti ricollego, che ti sento male. Pronto, meglio ora. Aspetta, fammi provare, se no ti richiamo, Andrea, ci sei? Sì. Ecco. Pronto? Sì, sì. Meglio, no, ti stavo dicendo che tutti noi cantiamo sotto la doccia, a me mi pagano per stare zitto, però esatto. Ad esempio, se cantassimo come Pavarotti di sicuro saremmo miliardari o milionari. Quindi è chiaro che pagano la tessera per andare a giocare al circolo del tennis. Ma se giochi come Djokovic, Federer, è ovvio che diventi milionario. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che chiunque è il migliore nel suo campo, naturalmente per una legge di mercato guadagna molto. E io dico che questo fair play finanziario adottato da Platini e da Blatter è assolutamente ingiusto, demagogico, e vuol dire che i grandi devono rimanere grandi e piccoli. Se io sono sultano del Brunei e mi voglio comprare il Chievo e voglio che il Chievo diventi la squadra più grande del mondo, posso anche spendere 1000 volte in più del mio fatturato. L'importante è che io adempia i miei impegni e gli obblighi. Esattamente quello che penso io, Andrea. Esattamente quello che penso io. Inutile che ci stiamo a confrontare su una questione su cui siamo perfettamente d'accordo. Di questo appunto volevo parlare. Sai che c'è la storia del fair play finanziario. E questo fair play finanziario, che alla fine che cos'è? Del Paris Saint Germain che spende 222 milioni per Neymar, questo è fair play finanziario? No, ma che senso ha il fair play finanziario? Cioè, non ha nessun senso. Sono delle società assolutamente per azioni, delle società di capitali, hanno il mercato come riferimento, hanno degli introiti televisivi che derivano dalla capacità di mettere in piedi uno spettacolo sportivo con dei grandi attori, dei grandi protagonisti, tanti spettatori allo stadio, e quindi secondo me devono rispondere a questa logica. Chiaro, anche perché ormai il sistema dirigistico che c'era prima della legge Bosman, prima della legge è saltato, perché prima avevamo, prima della legge 91 non ti sento più. Pronto. Eccolo. Prima della legge 91 c'era l'obbligo delle società di reinvestire nell'indotto nazionale. Ormai invece sono delle società commerciali a tutti gli effetti. Certo, Andrea. Ed è quello che ti dico, passaggio ulteriore, se anche qui mi ripeto come un disco rotto, però è un discorso che a me interessa molto, se siamo in 18 a potercelo permettere, facciamo un campionato per i fatti nostri, transnazionale, tanto siamo tutti in Europa, facciamo una Superlega. E poi giochiamo anche i campionati nazionali con altri giocatori. C'è un fatto da dire: ormai la gente perché paga i diritti televisivi? Perché vuole vedere l'eccellenza di ogni sport. Certo. Perché la gente vedere le Olimpiadi? Perché ormai c'è l'eccellenza dello sport. Le Olimpiadi dilettanti erano ormai uno show finito. Ma questo è chiaro: lo sport mondiale. Che ha messo l'eccellenza dello sport e per un mese e mezzo vedi degli spettacoli incredibili di professionisti. Ormai uno non può guidare taxi e poi dopo andare. Ma è evidente, Andrea. Infatti, intanto ti saluto e ti ringrazio, Andrea. Ci sentiamo prestissimo. Keep in touch, perché tanto noi siamo qui tutta l'estate. Le Olimpiadi, che sono lo spettacolo sportivo più bello del mondo, anzi, sono una delle cose più belle del mondo. Tanto che io consiglio. Anche chi se lo può permettere, risparmiando anche un quadriennio senza magari andare saltando qualche weekend al mare, di organizzarsi un viaggio alle Olimpiadi, perché vi giuro che è meraviglioso. Ogni sport, anche quello che meno vi interessa, al massimo livello, è uno spettacolo da togliere il fiato. Mauro, buongiorno da Bergamo, buongiorno, dalla operosa Bergamo. Buongiorno, buongiorno. Io intervenivo perché vi ho sentito disquisire su leggi di mercato applicate al sistema calcio e in generale al sistema dello sport di squadra. Secondo me però si sta sbagliando obiettivo e il paragone, ad esempio, a mio parere non può reggere. Nel senso che se è vero che in un film l'attore più bravo, più famoso, più conosciuto è giusto che abbia l'ingaggio più alto, la stessa cosa non può essere applicata in un sistema calcistico, per esempio, dove tutte le squadre partecipano alla Serie A piuttosto che alla Champions League, piuttosto che alla Serie B. Quindi l'unica maniera per tenere a galla il sistema è quello di equiparare le risorse. Non si può, ma come fai, Mauro? Basta copiare il sistema americano, quindi non c'è nulla da inventare. Bravo, però lo copi tutto, cioè non mi viene a parlare di salary cap e di luxury tax applicata al sistema attuale. Certo che no, lo devi copiare in toto, perché è in toto che funziona. E allora come facciamo le scelte? Le scelte dei giochiamo a facciamo il fantacalcio ogni estate. Aggiungo altro. Io faccio l'esempio dell'NBA che ha 30 squadre sul territorio americano, quando noi abbiamo 20 squadre di Serie A sul territorio che è un terzo di quello americano. Sì, ma questo vuol dire poco. Andiamo a contare. Allora, se vogliamo allargare questo discorso, deputati e senatori, cioè il Parlamento italiano è composto da 1000 individui. Quello americano da circa la metà, quindi a occhio, così a memoria, eppure le proporzioni sono le stesse. Mauro, il discorso è che il sistema non può essere modificato, lo distrugge, lo rifai o lo tari in un'altra maniera, perché non è chiaro che non puoi giocare a fare l'asta del fantacalcio a inizio stagione dando a tutti le stesse risorse, perché non sta né in cielo né in terra. È chiaro che non puoi mettere legare con le catene chi ha i soldi li vuole spendere, e quindi secondo me dobbiamo rassegnarci a una disparità tra corazzate che nuotano nei piccoli stagni del loro paese e navi dei pirati come la meravigliosa Atalanta di quest'anno che provano gli assalti, semplicemente così. Roberto, buongiorno. Sì, buongiorno. Sempre sul discorso del mercato. Sì, che mi piace, mi diverte. Complimenti tra l'altro per la trasmissione. Grazie. dico questo, mi sorrido un po' il fatto che ci sono delle persone che probabilmente non arrivano a fine mese, sono solidali con chi come loro fa difficoltà, e allora dicono sono pagati troppo i giocatori. Sì, però io voglio far notare che tra coloro che tutti gli anni trovano i soldi per andare allo stadio, farsi l'abbonamento, fare l'abbonamento alla TV, eccetera, ci sono proprio un sacco di persone che non riescono ad arrivare alla fine del mese. Però i soldi per lo stadio, per la televisione, li trovano. Appunto, perché è uno perché è uno spettacolo, come trovano un abbonamento, esatto, per vedere la Pay TV, allora, per andare al cinema, no? È chiaro, allora, quelli che non arrivano a fine del mese, allora smettono di spendere per la televisione, per vedere le partite, per andare allo stadio, per comprare le magliette, tutte queste cose, allora magari a quel punto i valori del mercato cambieranno. Ma no, non cambieranno. Cioè, poi io se voglio spendo per andare a vedere uno spettacolo che sia il migliore possibile, questo sì, e quindi vorrei vedere l'Italia piena di grandi campioni in modo da non doverli guardare solo in TV in altre squadre. Quindi semplicemente questo, non è questione, non è che se si diserta lo stadio, come tra l'altro accade in Italia, allora qualcuno si sveglia e cambia la natura delle cose. La verità è che per l'appunto valgono le leggi di mercato, possiamo essere invidiosi finché vogliamo, io per primo, come tutti voi, però non mi scandalizzo. Oh, beati loro, che dobbiamo dire? 800-24-0024, traffico, torniamo. Siete tutti convocati. Siete tutti convocati. Arrivo, un attimo. Tutti convocati. Welcome Italia, i migliori servizi di telecomunicazione per la vostra impresa. Vi presenta... Tutti convocati. Anche noi. No, non ci credi? L'emozione è tantissima. Aspettiamo un attimo. Sì, nel frattempo. Eccoci, dai, che forse ci riusciamo. Ma è bello tutto questo, emozionarsi così. No, sì, ero mamma che ci credevo. Non lo so. Cioè, ci ho sempre creduto, però mi sembrava come impossibile. Make a big noise playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing we will rock you. Abbiamo speso tanto per questo. E infatti ti sei girata per vedere se era vero. Non ci credevo. Vedevo che non ci fa nessuno. Che meraviglia sentire una ragazza che ha un anno in più di Donnarumma, di cui ci siamo riempiti le saccocce e qualcos'altro quest'estate, che piange sul podio, Simona Quadarella naturalmente, sul podio mondiale dopo un bronzo dei 1500 stile libero. Ne parlavo ieri con Giovanni Bruno, direttore di Sky, grande appassionato ma di cuore di ogni tipo di sport. Il senso, il dato politico, come direbbe il mio amico Pardo, di questi mondiali è che c'è un ricambio generazionale. Questo vale per la scherma e per il nuoto. Ciao Alessandro Pasini, inviato del Corriere della Sera, mio grande amico. Ciao Carlo, buongiorno a tutti. Come va? Va bene, mi è piaciuto il tuo riferimento. Tra l'altro lei la maturità l'ha fatta e l'ha fatta poco prima di questi mondiali e l'ha fatta anche bene. Non ha pensato mai di rinunciare. Brava. Questo non è naturalmente una facile battuta, facile demagogia, è semplicemente, seguendo il tuo discorso, no? Seguire due prospettive differenti della vita nel pieno rispetto anche di quella di Donnarumma, e ci mancherebbe. Appunto, però voglio dire, no? A volte la gioventù e lo sport portano storie differenti. Quindi è la conferma che si può fare tutto. Per carità. Quello deve essere chiaro. No, ma per carità, però nessuno mi venga a raccontare che Donnarumma dà cattivo esempio ai ragazzini. Donnarumma vive in un altro mondo, è un cartone animato e fa quello che vuole. Ma ci mancherebbe, lo dicevo perché c'è anche chi riesce a farla. Sicuro, e poi andare ai mondiali. Certo. Si è fatta anche tanta polemica, secondo me anche sterile, su questo tema. Insomma, diciamo che c'è anche chi riesce a coniugare le due cose. Comunque, al di là di questo aspetto, la storia di Simona Quadarella è fantastica. Hai ragione, c'è un ricambio. E meno male, però è così ormai da tempo, da un po', insomma, il nuoto italiano. Se ci pensi, a tre generazioni qua, no? Straordinarie, perché hai Magnini e Pellegrini, certo, Detti e Paltrinieri, che anche se hanno 22 anni comunque sono già consolidati. E adesso c'è questa Quadarella, c'è Martinenghi, che segnatevelo perché... Sì, già fatto, come si usa già dire, fatto, fantastico, già fatto. Sì, comunque, e così via. Comunque guarda Alessandro, poi Federica Pellegrini, ma per invidia sta sulle palle un sacco di gente, come tu sai, tra l'altro la Divina torna in acqua oggi alle 17.30 e non ce la perdiamo per nessuna ragione al mondo. Così, ne parlavamo oggi prima con Mastrangelo, servono i personaggi nello sport, servono i personaggi, poi fate pure gli invidiosi, vi piacciono i chierichetti, andate a messa tutti i giorni e fate la comunione se vi piacciono i chierichetti. Io preferisco gli irregolari e i personaggi. Sì, certo, qua insomma, diciamo, loro si dice sempre sono i bravi ragazzi del nuoto, ah, no? Però insomma è tutta gente che ha idee chiare, gente tosta. D'altro canto, sai, se ti disponi a fare quello che fanno loro quotidianamente, un po' irregolare devi essere, no? Poi c'è modo e modo di essere irregolare, puoi essere Jim Morrison e puoi essere uno che fa, certo, 20 km al giorno. Comunque hai ragione, ecco, uscire dagli schemi che poi li porta a fare queste grandi cose, a darci queste emozioni. Oggi grande giornata, oggi giornata straordinaria. Beh, oggi Federica l'hai detto tu. E poi c'è la sfida del secolo. Secondo me è la gara del mondiale, per quanto mi riguarda, anche se tante cose ci sono state belle, tante ce ne saranno. Io sono ancora flashato da Piti, che è una roba, la rana di Piti è un altro pianeta. Però al di là di questo, oggi Detti e Paltrinieri sugli 800 con Sun Yang, che rischia, ai noi, vincere peraltro, però è una sfida fantastica perché è il punto in cui le due correnti si incontrano, perché Gabriele Detti è più velocista, Paltrinieri è più fondista, ma negli 800 c'è la tempesta perfetta, quindi c'è grande tensione, grande esaltazione, almeno per quanto mi riguarda, ma credo per tutti gli appassionati di nuoto. Poi lo ripeto, potrebbe finire con un secondo e terzo, ahimè, perché il cinese sta in forma, però tanta roba, ragazzi, gli stringeremo la mano. Ma come ti invidio comunque, Ale, perché, no, ma sempre anche quei discorsi che facevo prima, io potessi, guarda, fare un regalo ai miei figli, risparmierei per 4 anni e li manderei a vedere le Olimpiadi, perché secondo me ogni sport al massimo livello, e tu segui ogni sport al massimo livello, sai perfettamente, puoi farci una lezione su questo, è uno spettacolo meraviglioso. È vero, è vero. Bisogna avere, come posso dirti, non vorrei dire l'apertura mentale perché sembra già portare un giudizio, però bisogna essere disposti allo stupore, no? Tu conosci la nostra categoria, no? Poi c'è chi dice che esiste solo il calcio, che gli altri sport sono secondari, oppure esiste solo il suo sport, eccetera. Invece è bello essere aperti e guardare tutto. Quindi giustamente tu parli dei figli, insegnare loro un po' a godere di tutto. In questo l'Olimpiade è magnifica, anche mondiali come questi, insomma, dove per esempio ci sono storie, no, molto belle come quelle del sincronizzato, oppure arriverà, e ve lo segnalo, non so se ne avete già parlato, ma il De Rose dei tuffi dalle alte dai 27 metri, che è un personaggio straordinario che corre per un... tuffa per una medaglia, insomma, no, vabbè, sì. è pieno di storie belle, personaggi interessanti. Poi ci sono anche quelle che ci fanno male. Anche. Sì, poi ci sono anche quelle che fanno male, ma anche qui trattasi di cambio generazionale, sette bello che ha già preso il volo di ritorno. Sì, è un peccato. Guarda, la pallanuoto è una grande sorpresa, soprattutto quella femminile, ti devo dire la verità, che aveva preso l'argento olimpico. E insomma, sembrava una medaglia sicura e veramente, veramente ha stupito il modo in cui è uscita con la Russia. Sul sette bello, sai, poi c'è stato il caso dei tre forfè. Ovviamente i portieri erano quello che erano, perché Tempesti è un totem, ma l'hanno preso quasi dalla spiaggia per dirgli vieni a giocare, no? Come facciamo noi per il calcetto. Quindi insomma non c'era il livello a cui siamo abituati. La Croazia è la Croazia, sì. E poi insomma io direi, se è meglio per... io ieri parlavo un po' dopo la partita con la Croazia con insomma i dirigenti, la federazione eccetera, la sensazione comune è meglio adesso che il primo anno post olimpico. Certo, certo, deve ricostruire, se si deve, insomma, è un processo di ricostruzione. In questo momento la Croazia è stata, però certo, vedere la pallanuoto che non prende medaglie fa un po' impressione, sì, ma ragazzi è la normalità, perché noi siamo abituati non bene, strabenissimo. Ale, ti ringrazio, grazie Alessandro Pasini. Grazie a te, un saluto a tutti. Grazie Alessandro Pasini, super inviato del Corriere della Sera. E c'è chi mi scrive, mi fa cascare le braccia, vabbè, che va, però non so cosa dire, io leggo un messaggio. Ecco, bravo il mercato e Quadarella, che ha un anno in meno Donnarumma e guadagna 100.000 volte in meno. E allora Embe? Che vuol dire questo? Per favore, amico ascoltatore, mi chiami e me lo spieghi. Alessandro da Napoli, abbiamo un minuto. Dica. Ciao Carlo, ciao Carlo, e grazie per la convocazione. A te, che piacere. Ascolta, io valutavo sulla vicenda Neymar, sì, perché io credo che sia tutta una messa in scena o una manovra da parte dell'entourage del giocatore, perché loro vogliono da un lato ottenere più quattrini al Barcellona e dall'altro ottenere una legittimazione interna che porti Neymar a livello di Messi. Lo escludo. Alessandro, questo è da escludere. Indietro, è un passo indietro nella carriera di qualsiasi giocatore, Alessandro, andare dal Barcellona al Paris Saint-Germain. Alessandro, lo escludo. Cioè, innanzitutto questi sono cose, queste sono manovre che non fai a questo livello spaziale. Tieni conto che c'è una clausola rescissoria. C'è il cartellino del prezzo attaccato al signor Neymar e su quel cartellino c'è scritto 3x2. Il giocatore non ci vuole andare a Paris Saint-Germain, è tutta una cosa, secondo me, interna per avere un ruolo diverso e una legittimazione maggiore interna al Barcellona, perché altrimenti fa un passo indietro, il campionato francese se lo vedono solo loro. Invece il Barcellona lo vediamo tutti. Ma secondo te è un ragionamento il signor Neymar ragiona in altri termini, io credo, che non sono solo di quattrini, ma anche di, cioè, non è che va a giocare nella Battipagliese, con tutto il rispetto per la Battipagliese che mi è simpatica, cioè va a giocare in un club che è nella ristretta elite di quelli che puntano alla Champions League, alla vittoria della Champions League, cioè va a giocare in un grande club. Poi che vuol dire se il campionato spagnolo lo guardi o non lo guardi? A parte che io che personalmente il campionato spagnolo per me è ridotto al classico, tutto il resto sono tanti a pochi, che sono dei 7-1, degli 8-0, eccetera. Ragazzi, parliamone con grande piacere dopo il GR. 800 24 00 24, ci raggiungerà il signor Mondonico. Bene, allora siamo tutti convocati. Convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Oggi abbiamo deciso di parlare di bolle, le bolle, quei corsi di borsa, dei mercati prendono il volo, ci sono quotazioni mostruose, bellissime, entusiasmanti, e poi tutto d'un tratto, pam, puff, e arriva la fregatura. Insomma, fregatura. È un po' un serpente corallo, diciamo la verità. Direi che è proprio crudele come fine. Dietro la bolla spesso c'è una balla, con licenza parlando. Perché sennò non crescerebbero così tanto i corsi borsistici. Magari c'è un eccesso di valutazione del titolo all'inizio, quando viene attribuito un prezzo da un advisor. Il serpente corallo di Stefano Elli, Marco Lo Conte e Mauro Meazza. Ogni sabato alle 9 su Radio 24. Ma quanto sei bello, serpente corallo, tutto colorato di rosso e di giallo. Il segnale orario vi è offerto da Cosa ti preparo? La tavola, prendo le pizze Roncadin. Pizze Roncadin, nel banco freezer. Devo stare seduto in panchina a guardare. O puoi entrare in campo. Ricominciamo tutti ai nostri posti! E andiamo! Tutti convocati. Rieccoci signori, sono sempre Carlo Gente, sempre Radio 24, è sempre e ogni giorno per tutta l'estate tutti convocati, ed è sempre dialogo aperto, i microfoni apertissimi per tutti gli ascoltatori come Mauro da Perugia, Raffaele da Napoli. Mi fa un piacere immenso che ci vengano a trovare. Mauro, buongiorno. Buongiorno. piacere mio, grande piacere. Dica, dica. Ma io riferivo al serpente terziario a Platini, quello che lui disse una decina d'anni fa sulla finale, sembra Manchester Bayern. Sì. Lui disse che non poteva consegnare la Coppa dei Campioni a chi aveva dei debiti, no? E quindi è venuta fuori la storia del surprise finanziario. Io credo che il surprise finanziario è stato tirato fuori da Platini per far ritornare grande la Juve. L'Inter vinceva i campionati, il Milan vinceva la Coppa dei Campioni e probabilmente Platini. Mauro, no. Vabbè, accettiamo questa perla di anti-juventinismo. Non credo proprio che fair play finanziario non fair play finanziario, la Juventus è tornata grande con le sue forze. Non c'entra nulla il fair play finanziario, tanto che la Champions League, andiamo a vedere, viene consegnata nelle mani sempre degli stessi, no? Che hanno debiti magari, ma sanno ripagarli, le banche fanno credito ben volentieri perché sanno che gli interessi vengono pagati, però per questo vi lascio a Barisoni, chiedete a lui. Raffaele da Napoli, buongiorno. Buongiorno Carlo, buongiorno. Io ho ascoltato qualche commento sul fair play finanziario e voglio intervenire perché avevo il tuo stesso punto di vista sul fair play finanziario, però poi ho cambiato idea. Io ho ascoltato il parallelo che c'è con il libero mercato, con la possibilità che c'è per un sultano del Brunei venire in Italia, prendersi il Chievo e farla diventare grandissima squadra. Tutto giusto. E io fino a qualche anno fa, però volevo far notare una piccola asimmetria che c'è tra un'impresa e una squadra di calcio. L'impresa, io sono un uomo di impresa, quindi credo nel libero mercato, tutto giusto, tutto bene. Però l'impresa ha il suo ottimo, diciamo così, quando tutti i concorrenti, come posso dire, muoiono e io mi prendo tutto il mercato. Quello è l'ottimo di impresa di mercato. La squadra di calcio invece non può fare a meno dei concorrenti. I concorrenti sono essi stessi parte della ragione di essere della squadra di calcio, quindi un fair play, forse non come è stato detto questo, ci deve essere perché anche la squadra più debole dà senso alla squadra più forte, sì, quindi Raffaele, non può essere, c'è una simmetria. Perdonami, poi mi replichi. Stiamo parlando però di due pianeti diversi, no? Cioè, innanzitutto io sono di principio contro il livellamento verso il basso, cioè non è che tu ti devi abbassare al mio livello, sono io che se trovo lo sceicco proverò ad alzarmi al tuo. E poi bisogna vedere se l'ambito in cui ci muoviamo è il mercato del quartiere o è il super negozio di lusso, perché ormai ci sono certi club che vivono nel ristorante da 100 euro. E lì continueranno a vivere e cosa possiamo fare? Gli tarpiamo le ali, gli rubiamo i giocatori, gli spariamo ai pullman? Cosa possiamo fare? E perché dobbiamo fermare questo? Perché? Non bisogna fermare dall'alto, bisogna permettere a quelli che stanno più in basso di sopravvivere, altrimenti neanche quelli che stanno più in alto hanno capito, ma allora per uscire da queste belle parabole che stiamo disegnando, stiamo parlando del campionato interno dei campionati nazionali e di Europa League, giusto? Sì. E di coppe, ok? Di competizioni internazionali. Sì. E allora, i campionati nazionali, cioè come... Ma questo in ogni paese, no? Cioè c'è un paese in cui il campionato nazionale è livellato? Esiste, dimmi l'Inghilterra, va bene perché sono tutti ricchi, è lì, è troppo facile. Negli altri paesi c'è un campionato livellato? E allora, cosa possiamo fare? No, ho capito, però l'Alicante vincerà mai la Liga? No. Però l'Alicante serve penso a quel campionato in cui vince sempre il Barcellona o il Real Madrid. Va bene, serve a dare senso, va al Bernabeu, prende 8 gol e torna a casa e tutti contenti. Sì, può avere un senso, ma io non lo trovo un grande spettacolo calcistico, tanto che cambio canale. Mentre mentre una partita di Champions League non me la perdo mai, chiunque giochi. Oh mister, buongiorno, come sta mister Emiliano Mondonico? Tutto bene, stavo tagliando l'erba del prato dove le mie tre cavalle vanno a pascolare e di corpo. E meno male che ho sentito al volo il vostro squillo. Se, allora... se rompiamo le palle mettiamo giù, stai facendo una cosa molto spento, più importante. Ho spento il trattore e le cavalle sono che mi guardano a 5 metri. Quando papà, quando li mandi a fare in quel posto e riprendi a fare quello che devi? Io tagliando l'erba gliela metto giù già tagliata, ma è come quando vai a mangiare pane e salame che ti danno già il salame tagliato. Non mi dire questo, mi fai venire una fame. E loro sono contenti perché gli taglio l'erba, loro la mangiano, sono qui più grasse che alte. Come quando, però... tagli, quando vedi uno che taglia il salame con la affettatrice, che cosa gli fai? No, ricordatevi sempre, la fetta di salame deve rimanere in piedi. Punto e a capo. Cioè, quando non succede questo, dilettanti non ci sono dei se e dei ma su questo punto. Anzi, ragazzi, lottano per non retrocedere. Lottano per non retrocedere, mister. Allora, io ti propongo rapidamente. Tra poco ti lascio andare a tagliare l'erba, giuro. Però ti propongo rapidamente. Sono seduto sul trattore. Ma io sono preoccupato per le cavalle, mica per te. No, le cavalle mangiano quello che ho già tagliato. È un'ora che sto tagliando. Poi dopo sta arrivando un po' di nuvole, però non c'è segnale di temporale. Ma si sta, in questi giorni si sta bene, dai. Senti, proprio bene, sembra di essere al mare. Ti propongo, meglio che al mare, stiamo benissimo qua, ti propongo quattro temi con quattro voci e quattro titoletti, o meglio, il primo titolo non è un titolo vero e proprio, ma è una pastiglia, si chiama Viagra, è il lavoro che deve fare Allegri. Dobbiamo preparare una grande stagione, che sicuramente... non sarà facile perché le pretendenti allo scudetto sono molto di più. Il Milan ha fatto un mercato importante, ha speso non so quanti soldi, credo che negli ultimi 10 anni sia stata la squadra che ha speso più di tutti, quindi sarà una pretendente allo scudetto, così come lo sarà Napoli, così come lo sarà l'Inter. Quindi sarà una stagione e un campionato molto bello, così come lo è stato l'anno scorso, dove la Roma e il Napoli hanno fatto il record di punti nella loro storia. Allora Emiliano, deve dare il Viagra alla Juventus Allegri, cioè ricaricare, rimotivare, rimodellare, l'ha già dato. Ha venduto Bonucci cioè la cessione di Bonucci chiaramente è un segnale chiarissimo per lo spogliatoio, sì, di dove loro sono a giocare e di come e cosa conta la società. Certo, e perciò è chiaro che se c'era il problema di essere un po' così con la testa per aria, questa mossa, diciamo, a tutti parsa incredibile, è proprio il discorso per dire allo spogliatoio calma e gesso, che qui si va in campo per vincere e dobbiamo vincere anche senza Bonucci. Ma questo sarà capito dallo sgabello. Se non vinciamo, i meriti erano di Bonucci. La filosofia è questa. Ma certo, quando è arrivato Allegri, perché la squadra ha vinto? Per dimostrare a tutti che il merito non era solo di Conte, ma era anche loro. Ovviamente. In questo momento è andato via uno dei giocatori più importanti. E perciò è chiaro che gli altri sono obbligati a vincere, altrimenti dicono tutti vincevamo perché c'era Bonucci. Se qualcuno pensa vincevamo perché c'era Bonucci, forse da mettere in manicomio. Comunque il simbolo è stato lo sgabello di Oporto, è lì che si è capito tutto. Emiliano, ti propongo invece un altro titolo. Dimmi. Il piccolo chimico Montella. Tanto questa vittoria non deve far perdere di vista l'obiettivo, noi dobbiamo diventare squadra al di là della continuità, abbiamo detto i ragazzi sono arrivati, ci hanno dato tanta qualità, sono ottimi calciatori, ma si devono integrare nella squadra, nel campionato, con i compagni, sono tante con la lingua, magari alcuni di loro mangiavano anche in maniera diversa, insomma c'è bisogno di adattamento e questo sicuramente aiuta questa vittoria, ma il nostro obiettivo è veramente la partita di giovedì prossimo che è fondamentale per noi. Emiliano, non so se tu a memoria ti ricordi qualcuno che abbia cambiato interamente, integralmente una squadra e si trova lì a dover ovviamente ricostruirla da zero, pur con, per usare parole del tuo amico Berlusconi, la stoffa è ottima, però... È chiaro che ricostruire in questa maniera è un bel ricostruire. Cioè, non ho capito Montella, perché dice tra 100 giorni vedremo chi è il Milan. Perciò vuol dire tra 3 mesi e rotti. E dice tra 1000 giorni lotteremo per lo scudetto, perciò vuol dire 3 campionati, al prossimo quarto campionato. Ma che balle sono, cioè, spiegami uno che ti dice tra 100 giorni vediamo chi è il Milan, tra 1000 giorni possiamo parlare di scudetto. Oh amico, dai, cavolo, io dico il Milan, meno male, speriamo che siano soldi veri, speriamo che siano che sia tutto a posto, meno male che ritornano in Italia i giocatori di una certa qualità, ma se anche sui giocatori di una certa qualità mettiamo il dubbio, ma però la vittoria col Bayern, vi ricordate quando Pippo Inzaghi è andato a giocare l'inverno nei paesi arabi, che ha vinto ha vinto, e da lì non hanno vinto più niente. No, vabbè, Emiliano, ma scusami, ma mi stai scoprendo l'acqua calda? Voi allenatori siete tutti dei pompieracci come questo, come questo qui. La mente ragiona in maniera matematica. Se noi siamo arrivati terzi l'anno scorso e ci sono due squadre che stanno facendo un mercato importantissimo, non vedo perché i favoriti dobbiamo essere noi. Mi sembra un'enorme cazzata di gente ci tira a mezzo e con la stampa napoletana ci cade dentro fino a piedi. Mi sembra abbastanza evidente e io non ci voglio vedere dentro. Siamo arrivati dietro a due squadre e non abbiamo fatto un mercato che ha stravolto la squadra, quindi se tutto va bene siamo gli stessi dell'anno scorso a livello di forza e quindi abbiamo due squadre davanti. E Milan e Inter non penso che dopo questi mercati che stanno facendo, una in maniera eclatante, l'altra prendendo il miglior direttore sportivo italiano e secondo me il miglior allenatore italiano, e siano destinati a stare dietro per anni. E te l'ho detto, no? Grisù, ti ricordi il cartone animato che guardava il pompiere? Io dico, a Napoli Mazzarri è arrivato secondo e terzo. Sì. Benitez, anche lui si è qualificato nelle prime posizioni. Sì. In questo momento il Napoli deve vincere. Deve vincere, la squadra più obbligata a vincere lo scudetto quest'anno è il Napoli, altrimenti tutto quanto che è stato enfatizzato prende la via dell'oblio. Cioè, in questo momento capisco Sarri, perché soprattutto lui in questo momento deve vincere qualcosa, perché i risultati li hanno fatti anche Mazzarri e Benitez. Sì, cioè, un contesto un pelo diverso, perché a quei tempi le milanesi tutto sommato non erano così diroccate. Ma non hanno vinto niente, un po' come il Napoli, ecco perché deve vincere il campionato. Solo vincendo il campionato il Napoli chiude il cerchio di questa enfasi che giustamente si è creata attorno. Come non cambi nessuno, ti credo, con la squadra che c'hai, chi vuoi cambiare? Cioè, anche l'Atalanta ha cambiato poco con la squadra che è arrivata quarta in classifica. Cosa fa? Cambia. No, meno male che non vende. Scusa, qui non c'è da acquistare, c'è da non vendere quelli che hai. Ma infatti, appunto, Mondo, sarei d'accordo sul fatto che la difesa dei giocatori importanti del Napoli è stato un mercato magari particolare, ma un grande mercato. Assolutamente, perché era lì il segreto di Pulcinella. Cioè, nei gol presi, che differenza c'era con la Juve? Non differenza di gioco, non differenza di qualità, differenza di fase difensiva. Perché nel campionato italiano, diversissimo da tutti gli altri, il campionato lo vince chi prende meno gol. E perciò tu puoi strombazzare chi vuoi là davanti, ma se dietro prendi gol, sei del gatto, perché mai come in questo campionato vince la squadra che prende meno gol. Certo. Poi magari fa anche più gol di tutti, però è importante che ne prenda di meno. Certo. Cioè, e perciò il Napoli, se vuol vincere il campionato, che deve vincere, deve prendere meno gol degli altri. Ecco perché hanno lavorato sulla fase difensiva, certo, oltre con gli acquisti anche con gli allenamenti, perché leggevo di allenamenti al mattino per la difesa e al pomeriggio per l'attacco. La fase difensiva è ancora più importante di quella offensiva. Sì, e alleni quella difensiva attraverso quella offensiva, cioè spingendo al massimo gli attaccanti. Emiliano, ti propongo un ultimo titolo che è di un noto film, non so se l'hai visto, Fight Club. Nervoso perché, scusa? No, ti chiedo. Qual è il dettaglio, qual è il movimento che ti determina il nervoso? Penso che sia presuntuoso da parte tua. Stiamo parlando del fatto che i calciatori non fanno un urlo prima di entrare in campo, prima della partita. E io gli ho fatto vedere una prova che abbiamo fatto a telefono e ora ritrovarmi già subito che sono uno nervoso mi dispiace. No. Vi vedo già nervosi, già ritti sui pedali, per cui voglio dire, vi conviene viverla meglio. Emiliano già ha cominciato a litigare con tutto il mondo, Spalletti, a fare la voce grossa, se la prende col tifoso che contesta il giocatore, se la prende con i giornalisti, ma è il suo gioco, sta facendo il suo gioco, giusto? Sai, non era così Spalletti, io lo conoscevo ai momenti dell'Empoli, ci siamo trovati anche lì nel suo mare una settimana, non era così. Cioè adesso quando lo sento, cioè dico, ma molto molto molto probabilmente i Santoni erano questi, sai, quelli di una volta, quelli che boh, chissà che cosa tiravano fuori. Lasciami dire, molto meglio così, molto migliorato, molto migliorato. Assolutamente, ah, ecco. Se mette tutti quanti a tacere è molto importante. È chiaro che quando vai a guerra e fuoco devi vincere. Sì, se non vinci, sono cavoli tuoi. Ecco perché io dico: non andiamo a insistere sulle cavolate, a meno che non ti interessi per non trattare altri argomenti, certo, perché c'è anche questo. Certo, sai quante volte io ho fatto finta di fare la rissa? Ma chiaro, Emiliano, così, parole, ma lo so. Per non parlare d'altro. Ma sì, ma sicuro. Ecco, ma sicuro. E perciò io penso e mi auguro che sia così, perché così non parli, cioè, dei problemi veri. Adesso lui deve difendere il territorio, difendere la squadra, deve fare il capopopolo, deve fare il capobranco. Ma deve portare argomenti che non stanno né in cielo né in terra, che non gliene frega niente, nessuno. Perché gli argomenti veri bisogna metterli a tacere. Ma anche questo penso sia abbastanza normale, parte del gioco, parte del gioco. Grazie maestro, vai a tagliare l'erba di corsa. No, adesso accendo il mio trattore e ho ancora circa un 50 metri da fare, 50 per 25. Sai come si fa? Avanti e dietro, avanti Andrè, che bel divertimento. Ciao Emiliano, grazie, ciao, a presto, ciao ragazzi, un abbraccio, ciao. Saluto già Marcel Vulpis, con cui tra poco in chiusura affronteremo un argomento molto interessante e molto serio, che magari riprenderemo nei prossimi giorni. Filippo Roberto, che stanno aspettando dal Paleozoico, e li ringrazio per questo. Filippo, buongiorno. Buongiorno, dica. Saluto gli ascoltatori e mia figlia Alice che mi sta ascoltando. Volevo dire, sento un molto pessimismo sui tifosi della Fiorentina, ma ricordiamoci che quando abbiamo vinto l'ultimo scudetto eravamo una squadra di giovani, nessuno ci aspettava niente da nessuno e abbiamo vinto lo scudetto. Noi abbiamo una possibilità: fare una squadra di giovani e sperare che ci vada bene. L'importante è giocare bene, e non condivido queste critiche della Valle, che in due anni ci ha riportato dalla Serie C in Serie A. No, ma è un amore. Ma no, ma Filippo, a parte che il fatto che comunque, cioè, la Fiorentina, io fossi un tifoso della Fiorentina, vorrei che una squadra fresca e che mi divertisse. Poi è evidente che della Valle, fossi un tifoso della Fiorentina, sarei sempre grato e di cuore, così come fossi un tifoso del Napoli, sarei sempre grato e di cuore De Laurentiis, qualunque cosa succeda. È altrettanto evidente che insomma i gioielli della corona sono stati venduti tutti. Roberto, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Innanzitutto grazie per la convocazione. Ma grazie a lei. Volevo parlare un attimo del fair play finanziario, che secondo me è un'assurdità. Sì. Poi sicuramente in libero mercato non si deve discutere sul prezzo, perché non esiste. Ma poi in economia, perché squadra, perché squadra fa il tipo lei? Milan. Per il Milan, ecco, sì. E lei è arrabbiato perché il Milan ha speso una badilata di milioni sul mercato? Ma direi di no, cioè, Strafelice, anzi, se ne abbiamo ancora, forza ragazzi, eh? È così, no? È fatta in una logica di buon senso, cioè, non sì, si può spendere, ma è evidente, follie, Beh, ma però se le dicono, guarda che domani prendiamo Neymar, viene 222 milioni più 40 al padre, più 30 al giocatore, eccetera, eccetera, lei è arrabbiato? Ah no, non è arrabbiato, Allora, io saluto e ringrazio, oltre a Roberto, Marcel Vulpis, che è fondatore ed editore di sporteconomy.it, perché io voglio chiudere, voglio prima chiudere questo circolo. In caso Infront, mi fai direttore un rapido riassunto delle puntate di questo caso? Ma è un caso che, per fortuna, visto che ha toccato due ex manager di un gruppo internazionale, oggi cinese, ma fino a pochi anni fa totalmente italiano, rischiava praticamente di, questi due manager rischiavano di essere non solo arrestati, ma proprio di finire in carcere per una... Ricordiamo nomi e cognomi. Marco Bogarelli. Che è stato il presidente di Infront Italy, e Giuseppe Ciocchetti, certo, che è stato il CFO, quindi il direttore generale, ma anche il direttore finanza del gruppo. E poi tra gli interessati c'era anche Riccardo Silva, fondatore di MPN Silva, che è un gruppo che si è occupato come advisor in front di... Ed è stato un classico caso di gogna mediatica, di processo su pubblica piazza. Ma questo, sai Carlo, ormai è la prassi, purtroppo. In ogni campo della vita. In ogni settore, cioè questo è un paese veramente... Tutti parlano di idee liberali, della rivoluzione liberale, ma qui di liberale non c'è proprio più nulla. Il paese più illiberale che esista al mondo. Io penso che l'Uganda sia più liberale di noi, proprio come principi ispiratori e valoriali. Ma come principi ispiratori, ma d'altra parte sai perfettamente che qui nasce una cosa, tipo l'avviso di garanzia è una cosa che normalmente per la legge è a garanzia dell'indagato. Qui diventa la sentenza. E poi, come scrivi tu, quando invece si scopre che non era così, il processo è già andato, è già passato in giudicato per la gente, e si risolve il tutto con tre righe di breve, giusto? Ma, se mi posso permettere, chiaramente non posso parlare a nome di Bogarelli e di Ciocchetti, perché non li rappresento né ieri né oggi, ma credo che quando loro hanno deciso di dimettersi dal gruppo Infront, al di là dei comunicati stampa di circostanza, ci fosse anche una volontà di abbassare i riflettori e le luci, perché effettivamente erano stati messi, come dicevi giustamente tu, in una gogna mediatica. E questo, cioè, quello che è successo a Bogarelli e a Ciocchetti può succedere a chiunque. Questo che io voglio purtroppo sottolineare. Tristemente lo sappiamo. Tutti i settori possibili e immaginabili. Ma è chiaro, oggi, dove non c'è la possibilità tra virgolette, superare la concorrenza nella bravura di una persona, parte la letterina, parte l'avviso di garanzia, chi più chi meno. E questo è il finale, cioè siamo in un sistema lo abbiamo imparato in tante vicende del nostro paese, non solo quelle più recenti. Torniamo a parlare di tutto questo molto presto, perché è un argomento estremamente interessante. Ho 30 secondi, in 30 Vai. Secondi mi riesce a dire se la nuova Infront riuscirà a portare un contrattone all'asta dei diritti TV che è stata posticipata ad ottobre? Attualmente Infront è guidata dal dottor Luigi De Siervo, che è una persona che ha una grande esperienza nell'intermediazione dei diritti audiovisivi. Sì, Marcel, dimmi secondo te sì o no, poi torniamo a parlare con calma. Secondo te? Chiaramente ci sarà uno scontro molto forte fra Sky e Mediaset, cioè al di là di come possono essere organizzati diversi pacchetti, bisogna capire se in questo momento, nella legge della domanda e dell'offerta, anche questa principio di base. È chiaro, è chiaro. Ma Mediaset, ed è questa la novità degli ultimi giorni, nella quale adesso comanda Galliani, nuovo presidente di Mediaset Premium. E torneremo ovviamente a parlarne anche con Marcel Vulpis, che ringrazio, ringrazio ovviamente Giorgio De Luca, ringrazio Paolo Corleoni, ci sentiamo domani. Abbiamo visto abbastanza, ciao a tutti. Saluti.